Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Fase 2, l'Italia riparte, code davanti ai negozi e per i mezzi pubblici, in città tornano le auto, bici e runner nei parchi. A Milano passeggeri in fila e controlli alla stazione per le partenze dei treni verso il sud, sovraffollamento sui vagoni della Circumvesuviana a Napoli. Risorse a fondo perduto per le imprese in arrivo nel prossimo decreto del governo, le annuncia il ministro dell'economia Gualtieri. Lotta al virus, funzionano gli anticorpi del vaccino italiano, in estate i test clinici sugli uomini. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque è ufficialmente iniziata dalla mezzanotte di oggi la cosiddetta fase 2, quella della convivenza con il coronavirus. Sono 4 milioni e mezzo gli italiani che da oggi tornano al lavoro, nei cantieri, nelle imprese manifatturiere, nel commercio all'ingrosso. Particolare attenzione alla vigilia si era concentrata sull'andamento per quanto riguarda nelle città, soprattutto il settore dei trasporti. Vedremo com'è andata tra poco al nord. Cominciamo da Roma. Pochi pendolari sui mezzi pubblici, molte più auto in circolazione, code alle stazioni della metropolitana, rispetto delle regole ma alcune criticità soprattutto al centro-sud. L'Italia della fase 2 si rimette in moto con un appello alla responsabilità da parte del premier Conte. Il futuro del paese è nelle nostre mani, ha scritto ieri sera in un tweet. A Roma traffico più intenso e lunghe code questa mattina alle stazioni della metro per i sindacati a volte non rispettose della distanza di sicurezza. In servizio anche 1300 autobus dove i passeggeri possono sedersi solo sui sedili non contrassegnati dai marker, con obbligo di mascherina e capienza al massimo del 50%, prescrizioni che non sempre sembrano rispettate. Pochi i passeggeri a Roma Termini, pochissime le frecce in circolazione. A Napoli più gente in strada, ma soprattutto sportivi che dopo quasi due mesi di stop sono tornati a praticare l'attività motoria all'aperto. Il sindacato di base segnala però centinaia di passeggeri costretti a viaggiare ammassati a bordo del treno della Ferrovia Cumana che collega l'Interland di Napoli con il capoluogo. Traffico più intenso a Palermo, lunghe code davanti agli esercizi commerciali e davanti a bar aperti dove da oggi è possibile anche l'asporto. Più movimento del solito ma nessuna criticità a Bologna, così come a Trieste, a Torino e a Firenze. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E veniamo, come anticipato, al nord, in particolare al nodo di Milano, dove c'era molta attesa, dicevamo, perché nell'area metropolitana della città centinaia di migliaia di persone da oggi hanno ripreso a lavorare e questa mattina molto presto è andata a verificare la situazione per quanto riguarda stazioni delle metropolitane e anche stazioni ferroviarie. La nostra Rosanna Magnano, buongiorno Rosanna, com'è andata? Buongiorno, la situazione stamattina è ampiamente sotto controllo, questo è stato il commento del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che in effetti descrive bene questo primo giorno di ripartenza di Milano, in cui i cittadini sono stati effettivamente disciplinati e il flusso delle persone è stato gestibile. Una città, insomma, che in tempi normali corre veloce e si è riscoperta più lenta e più paziente. Nelle diverse stazioni metropolitane, insomma, in cui sono stata, i passeggeri erano tutti con la mascherina, però molti ancora senza guanti, che secondo l'ordinanza del governatore Attilio Fontana sono obbligatori per salire sui mezzi pubblici. Però per oggi i controlli sono stati soft, perché a prevalere è stato un approccio di accompagnamento ai cittadini in questa prima ripartenza. Le corse sono state intensificate e in molte stazioni capolinea della metro sono stati fatti partire anche alcuni treni vuoti per consentire a tutti di salire. Insomma, personale per la vigilanza, militari, tutor antiaffollamento e persino gli ausiliari del traffico oggi sono stati tutti schierati per aiutare i milanesi a ripartire con il piede giusto. È tutto. Grazie Rosanna Magnano. E intanto, sempre da Milano, dalla stazione ferroviaria di Milano, questa mattina c'erano diversi treni in partenza con prenotazioni off limits per ritornare nell'Italia del centro e del sud, dopo che negli ultimi due mesi non era stato possibile fare ritorno nelle case di residenza. E allora sentiamo le voci, però anche in questo caso possiamo dire che è filato tutto abbastanza liscio, ma dicevamo, sentiamo le voci raccolte da Rosanna Magnano. Ad Ancona, nelle Marche. Io sono di là e la mia famiglia vive lì, quindi visto e considerato che al momento, soprattutto nel mio settore, non si potrà tornare a lavorare a breve, ho deciso di tornare a casa. Mi sono laureato il 18 marzo in farmacia e quindi in questo momento, non essendo né abilitato per lavorare in farmacia, né tantomeno le aziende farmaceutiche assumono personale, sento disoccupato, scendo a casa per motivi di residenza, anche per tornare un po' con la famiglia in questo periodo. Lavoro come aiuto cuoco qua a Milano e sono rimasta bloccata qua l'8 marzo e adesso scendo giù a Pisa per ricongiungermi alla mia famiglia. Non c'è lavoro, non arrivano soldi, non si può pagare l'affitto. Sono una truccatrice cinematografica perché sono con mio marito, torniamo a casa nostra in Toscana dove manchiamo da 2 mesi perché eravamo qui per lavoro tutti e due, siamo rimasti poi bloccati. I set ripartiranno chissà quando. E oggi borse molto negative in Europa. A Milano l'indice FTSE MIB in questo momento cede il 3,08%, pesano a livello europeo sicuramente anche le tensioni che sono riaccese dagli Stati Uniti e la Cina dopo le accuse degli Stati Uniti alla Cina di avere manipolato le notizie sul coronavirus. Ne parleremo tra poco, ma dal punto di vista economico c'è attesa per il decreto di maggio del governo che dovrebbe essere annunciato con Consiglio dei Ministri già di questa settimana. C'è l'accordo intanto per l'estensione della cassa integrazione a fino a ottobre e poi il ministro Gualtieri annuncia risorse a fondo perduto per le imprese. Continuano nel governo le discussioni sull'ex decreto aprile, slittato a maggio, da 55 miliardi, punti cruciali, ammortizzatori sociali, aiuti alle imprese. Sul reddito di emergenza, PD e Italia Viva chiedono che siano i comuni a gestire i fondi. Sull'ingresso dello Stato nel capitale delle aziende, misura che non piace ai renziani, si parla di contributi a fondo perduto e incentivi, senza interventi nella governance, ribadisce il titolare dell'economia Roberto Gualtieri. Sì alla proroga fino al 31 ottobre della cassa integrazione, la ministra del lavoro Nunzia Catalfo. Sulla cassa integrazione in tutto ci saranno 16 miliardi che verranno appunto distribuite a seconda del tipo di ammortizzatore sociale. Tra le novità, indennizzi per colf e badanti da 400-600 euro per 2 mesi a seconda della riduzione dell'orario di lavoro, proroga del contributo babysitter da 600 euro da spendere anche nei centri estivi e del congedo straordinario, confermato il bonus autonomi da massimi 1.600 euro per aprile e maggio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan, come anticipato. Sono queste le parole del segretario di Stato americano Mike Pompeo che accusano la Cina. Un'accusa rilanciata anche dal presidente Donald Trump che ha detto: penso che i cinesi abbiano fatto un errore, hanno cercato di nasconderlo, ma non ci sono riusciti. E intanto nel mondo sono 3 milioni e mezzo ormai i casi di coronavirus, circa 250.000 le persone decedute. Il paese più contagiato resta da settimane gli Stati Uniti, dove si sono registrati 1 milione di casi, quasi 70.000 vittime, mentre in Europa con più contagi sono l'Italia, la Spagna, la Francia, poi seguono il Regno Unito e la Germania. Sentiamo anche come si sta cercando di ripartire in varie parti del mondo. In Francia si riparte l'11 maggio con la riapertura di gran parte dei negozi e delle scuole primarie, anche se ieri la sindaca di Parigi con 300 colleghi dell'Île-de-France ha chiesto allo Stato solennemente, si legge, di rinviare la ripresa scolastica. In Spagna invece la ripartenza sarà graduale, valutata volta per volta secondo i territori delle necessità. Le prime a riaprire oggi sono state alcune isole delle Canarie e delle Baleari, Formentera compresa, imposte mascherine e regole restrittive per i negozi. Nel Regno Unito è atteso per domenica e non per giovedì, come inizialmente ipotizzato, la presentazione da parte del Premier Johnson del piano per la fase 2, che già si sa che sarà graduale. In Belgio, da oggi si allentano alcune misure di confinamento, sono permesse le passeggiate all'aperto e attività fisiche, si aprono nuovi negozi e il trasporto pubblico riprende normalmente. In Russia, possibile graduale allentamento delle misure di confinamento a partire dal 12 maggio, con gradazione differente da regione a regione. In Islanda riaprono licei e università, così come musei, dentisti, parrucchieri, resta in vigore il divieto di assembramento. L'India da oggi ha iniziato ad allentare le misure in alcune regioni, con la ripresa tra l'altro della vendita degli alcolici e relative lunghe file ai negozi. Riaprono le scuole, rimaste chiuse per oltre 3 mesi in tutto il Vietnam, dove nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi contagi né decessi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fronte cure e vaccini, notizie positive arrivano anche dal terzo progetto italiano in corsa per la realizzazione di un vaccino. Funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino dell'azienda Takis di Pomezia, lo indicano i test eseguiti nel laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani. Secondo l'azienda è il livello più avanzato finora raggiunto nella sperimentazione di un candidato vaccino nato interamente in Italia. I test sull'uomo sono previsti comunque dopo l'estate. E oggi a Bruxelles si svolge la conferenza internazionale dei donatori alla ricerca di fondi per il vaccino in chiave europea. L'obiettivo è convincere quanti più governi, istituzioni e aziende possibile a partecipare e a donare per sostenere la ricerca dei vaccini, la diagnostica e le terapie. Una maratona online di raccolta fondi con testimonial di eccezione che da giorni si susseguono in appelli. Dal tennista bulgaro Dimitrov a protagonisti del mondo accademico, a lavoratori e scienziati in prima linea nel mondo medico-scientifico. Su iniziativa della Commissione europea, Italia, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Canada, Giappone, Arabia Saudita con la Presidenza del G20 e Consiglio europeo lanciano una raccolta fondi al via oggi 4 maggio online dalle 15, con cui si punta a mettere insieme nella fase iniziale circa 7,5 miliardi di euro. Durerà almeno 3 settimane. Tra le organizzazioni partner dell'iniziativa, l'OMS, il Wellcome Trust e l'Alleanza Globale per i Vaccini, Gavi, Bill e Melinda Gates Foundation, motivo anche di una telefonata tra il fondatore di Microsoft e il presidente Conte, che ha firmato la lettera congiunta con il francese Macron, la cancelliera Merkel, per trovare risorse da aggiungere ai 380 milioni di euro già mobilitati da Bruxelles, ma anche cure condivise. Sarà un vaccino prodotto da tutto il mondo, per tutto il mondo, dice Ursula von der Leyen. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con la cronaca ci spostiamo in Germania, dove si è chiuso senza una vera fine uno dei processi più lunghi e caotici anche del dopoguerra in Germania, quello per la morte di 21 persone e il ferimento di oltre 600 nella gigantesca calca che avvenne durante la Love Parade di Duisburg nel 2010. Nessuna condanna. Il tribunale di Duisburg ha archiviato il processo sul massacro a Love Parade il 24 luglio 2010. Nel corso del maxi evento musicale nella calca morirono 21 persone, tutti giovanissimi, tra cui un'italiana, la bresciana Giulia Minola, 21 anni. In 650 rimasero feriti. Agli inizi di aprile il tribunale ha chiesto l'archiviazione per gli ultimi 3 imputati tra gli organizzatori dell'evento, accusati tra l'altro di omicidio e lesioni colpose. Il processo, questa la motivazione, era stato sospeso causa coronavirus e non sarebbe stato possibile concluderlo entro i termini della prescrizione a luglio. Già lo scorso anno era stata archiviata la posizione di altri 7 imputati. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 13 minuti, facciamo un piccolo break. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dalla intervista con il direttore dell'ATS di Milano, perché da oggi scatta la seconda fase e fondamentale sarà la capacità di testare, cioè di individuare nuovi casi di coronavirus, cioè di fare tamponi, perché senza questa capacità rischiamo di ritrovarci con una impennata dei casi molto presto. Questo tra poco, quindi con il direttore dell'ATS di Milano vedremo se c'è un cambio di passo, perché fino ad oggi i tamponi sono stati sempre dannatamente troppo pochi. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco. Queste le notizie di oggi, fase 2, l'Italia riparte, code davanti ai negozi e per i mezzi pubblici, in città tornano le auto, bici e runner nei parchi. A Milano passeggeri in fila e controlli alla stazione per le partenze verso sud, a Napoli sovraffollamento sui vagoni della Circumvesuviana. Risorse a fondo perduto in arrivo per le imprese, nel prossimo decreto le annuncia il ministro Gualtieri. Da oggi inizia il monitoraggio delle regioni sui possibili nuovi casi, tra poco Effetto Giorno il direttore dell'ATS di Milano. Minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. E allora, come annunciato, è con noi Vittorio De Micheli, direttore sanitario dell'Agenzia per la tutela della salute, l'ATS di Milano, città metropolitana di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Allora, con lei per cercare di fare il punto sulla capacità che avremo in questa fase 2 di testare, cioè di fare tamponi, testare per tracciare e poi per eventualmente curare nuovi casi di coronavirus, è fondamentale perché è possibile che ci sia un aumento del contagio, essendo che in questa fase si sono rimesse in moto oltre 4 milioni di persone. Dottor De Micheli, in Lombardia, a Milano sicuramente nella prima fase, ma in tutto il paese, i tamponi sono sempre stati scarsi, si è dovuto mettere in moto una macchina che non era assolutamente preparata a tutto questo, poi sono cresciuti nel tempo. Fino ad oggi si sono concentrati quasi soltanto negli ospedali e per i casi molto gravi. Sul territorio sappiamo di medici che chiedono i tamponi ma non riescono a farli. Da oggi si cerca di cambiare passo, e questa è la prima domanda: si cercherà di cambiare strategia o rimarrà, diciamo, il fatto di fare soltanto ai casi ospedalieri? Chi ha un sospetto Covid deve aspettare. Intanto quello che si fa in Lombardia è ciò che viene raccomandato dal nostro Ministero della Salute, che per il momento limita l'uso di questi tamponi ai soggetti con sintomi, e questo dal punto di vista del controllo della fase 2 rappresenta un limite, perché siccome una parte, che non sappiamo dire quanta, di questa infezione viene trasmessa da soggetti asintomatici, noi dovremmo poter essere in grado anche di usare i tamponi per lo screening della popolazione, ma questo temo che non sarà mai possibile. Questo, perché i tamponi sono insufficienti. Però quindi, fino ad oggi, scusi, ci sono state, perché lei parla di sintomi, ci sono persone che hanno accusato sintomi ma che non erano così gravi da essere ricoverate, che a cui non è stato fatto il tampone, non solo in Lombardia, questo va detto, in quasi tutta Italia. No, assolutamente no. Allora, in questo momento il passo è già un po' cambiato, però le indicazioni che sono state allargate prevedono le persone con sintomi nelle case di riposo e una estensione dei controlli comprensibili per il rientro al lavoro delle persone che sono addetti ai servizi essenziali e quindi gli operatori sanitari, ma anche altri operatori di pubblici esercizi, e quindi in questa lunga lista d'attesa, ahimè, ogni tanto capita che qualcuno, soprattutto a domicilio, non riesca a fare il tampone in tempi brevi. È una cosa di cui siamo consapevoli, in parte legato al fatto che appunto i tamponi non sono mai a sufficienza, in parte anche legato a un po' i nostri sistemi informativi che non sono perfetti, purtroppo così, ma il passo è già cambiato. In questo momento facciamo migliaia di accertamenti, per esempio, non so, nella TS di Milano circa 3.000 accertamenti sono stati fatti nelle RSA. Senta, lei stava dicendo, stava accennando anche alla disponibilità, no, di mezzi per fare i tamponi. È una catena complessa, perché si va dalla disponibilità fisica del tampone, però questi ci sono perché li produciamo anche in Italia, l'azienda di Brescia li ha distribuiti centinaia di migliaia di pezzi. Poi si è dovuto estendere la rete dei laboratori, faccio per spiegare anche agli ascoltatori. Poi c'è la questione dei reagenti, che in un primo momento si è detto erano scarsi, poi anche le aziende stesse produttrici di reagenti non ce ne sono in Italia, ma si è aumentata l'importazione perché è aumentata la produzione. Poi c'è anche il personale, no, che bisogna avere a disposizione, le ATS, gli ospedali, per andare a fare questi tamponi. Però le chiedo, oggi per esempio chi è che fa i tamponi? Ci sono delle unità specializzate a Milano? Quante ce ne sono di unità anche esterne, che mobili, che vanno in giro per le case dove la gente sta male a fare i tamponi? Adesso la situazione è migliorata, anche se bisogna dire che andare a fare i tamponi a domicilio è sempre una questione che consuma molto tempo e molti dispositivi di protezione, per cui tuttora cerchiamo di riservare questa modalità a quei pochi casi in cui proprio muoversi da domicilio non è possibile, per esempio i soggetti che fanno i tamponi di controllo alla fine della loro quarantena per la guarigione, se è possibile con mezzi propri si spostano agli ambulatori. In questo momento ci sono, diciamo, tutti gli ospedali che fanno tamponi ai loro ricoverati in dimissione e che poi fanno il follow up a distanza e praticamente tutti i principali ospedali milanesi hanno ambulatori. Poi in collaborazione con le ASST abbiamo aperto un'altra mezza dozzina, diciamo, di punti e sì, tutti i giorni, appunto, adesso Milano Nord ne ha aperto uno in collaborazione con una cooperativa di medici che fanno il cosiddetto drive-thru. Areo, cioè l'agenzia dei trasporti, ha una piccola unità mobile, noi stessi a DS abbiamo un camper che prima usavamo per la tubercolosi che è in grado di fare i tamponi, quindi si sono un po' moltiplicate. Poi ci sono anche dei soggetti privati che erano attrezzati per fare i prelievi a domicilio, quelli di sangue, sì, che adesso si sono attrezzati per fare i prelievi di tamponi, però ovviamente la quantità di persone in lista d'attesa a Milano, appunto, ricordiamo che tra soggetti sintomatici riconosciuti col tampone e soggetti sintomatici segnalati dai medici di famiglia, viaggiamo intorno ai 30.000 soggetti. Tutti questi prima o poi avrebbero bisogno di un tampone. Ce la faremo. Lei si ritiene, come dire, a questo punto pensa che la rete a disposizione per fare i tamponi nell'area metropolitana di Milano sia sufficiente? Lei è soddisfatto del lavoro svolto fin qua o no? No, assolutamente bisognerebbe potenziarla. Io però penso che in queste prossime settimane sia molto più importante potenziare il sistema di sorveglianza per riconoscere i nuovi casi anche solo al sospetto, anche se il tampone dovesse arrivare qualche giorno dopo della diagnosi clinica. Perché? Perché con il numero di casi che ancora abbiamo nell'area metropolitana, come abbiamo detto tante volte, ci preoccupa la densità di popolazione, ci preoccupano le relazioni sociali che a Milano sono per fortuna intensissime, ma in questo caso ciò rappresenta un pericolo, diventerà prioritario secondo me riuscire a identificare e mettere in quarantena le persone malate e i loro contatti anche solo sospetto, e poco importerà se il tampone arriverà qualche giorno dopo, però sicuramente bisogna migliorare molto, ma è una specie di coperta corta che non si riesce a allungare, ecco, più di però, tanto. Cosa dovrebbe succedere? Cosa dovrebbe scattare? Lei cosa si aspetta che possa succedere affinché questa coperta si allunghi? Perché diciamo nella catena degli eventi, per quanto riguarda per esempio la questione del tamponamento, abbiamo detto, no? Cioè i tamponi ci sono, i reagenti cominciano ad affluire con maggiore quantità, i laboratori, lei ce l'ha detto, ci sono. Che cosa manca ancora per poter arrivare a compiere un tracciamento come sarebbe necessario? Cioè deve arrivare qualcosa dal Ministero, dalla Protezione Civile, da voi a livello locale, da dove? No, intanto la disponibilità di reattivi è migliorata, ma diciamo la potenzialità complessiva di tamponi in questa regione resta molto limitata rispetto all'uso potenziale. Ricordiamo che il tampone fa una fotografia istantanea, quindi comunque dovrebbe essere poi reiterato almeno settimanalmente per fotografare in successione l'evolversi dell'epidemia. Quindi secondo me la strada dei tamponi, per quanto possa essere migliorata, sarà sempre una strada largamente insufficiente. E la grossa speranza che arrivi presto la titolazione degli anticorpi attraverso il test sierologico in grado di dirci se una persona non è più contagiosa. Ecco, quando ci sarà quel test, che spero non tardi molto ad arrivare, allora cambierà drasticamente la nostra possibilità di avere una conferma diagnostica del sospetto, perché allora riusciremo con un prelievo di sangue rapidamente a capire se una persona ha superato l'infezione, se non è più pericoloso o addirittura se ha contratto una immunità permanente. Staremo a vedere. Su questo il campionamento dei test a livello di campionamento statistico sta per partire proprio in questi giorni, lo ha annunciato il commissario Arcuri. La regione Lombardia si muoverà con altri test, come anche tutte le regioni lo stanno già facendo, e avremo modo di tornarci. Per il momento io la ringrazio, dottor De Micheli, da TS di Milano, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buongiorno. Beh, insomma, avete sentito, non siamo ancora in grado. Questa intervista vale per la città metropolitana di Milano, ma situazioni analoghe le ritroviamo in altre zone d'Italia sicuramente. Non siamo ancora in grado di testare, bisogna fare uno sforzo organizzativo importante, aggiuntivo, perché se risaliranno i casi come è possibile che sia in fase 2 con 5 milioni di italiani al lavoro da oggi, bisognerà aumentare la capacità di testare, perché altrimenti rischiamo di perdere il controllo della situazione. Adesso invece ci spostiamo, abbiamo parlato del centro-sud di Milano, andiamo in una piccola città del nord, a vocazione anche turistica, come Como. Cerchiamo di capire come in questa città anche le attività turistiche aspettano di ripartire, come sta andando anche il lavoro dei negozianti. Como prova a ripartire, poco movimento, aperti soltanto alcuni negozi e qualche bar per asporto. Un mix di preoccupazione e entusiasmo fra gli esercenti, disorientati per le troppe norme e le difficoltà a capire se si è in regola. Apriamo oggi, avevamo intenzione di aprire domani perché ci stiamo organizzando bene, però visto che ormai siamo qui, una cliente è entrata, rimaniamo aperti. Nonostante sia presto, è arrivata una cliente, magari sarà l'unica della giornata. Comincia a muoversi qualcosa, visto che noi siamo aperti solo il mattino per ora. Una ripartenza piena di insidie per una città votata al turismo. In particolare la domanda straniera è stata l'anno scorso di 980 milioni di euro e ora c'è il timore che questa domanda crolli. Siamo molto preoccupati in tutti i sensi, in quanto turisti non ce ne saranno di sicuro, non so che fine faremo. Allora, oggi primo giorno di apertura, solo asporto ovviamente. Beh, diciamo che ovviamente è una grande emozione perché dopo due mesi che non si lavora è bellissimo. C'è pochissima gente, riusciamo a servire poca gente alla volta perché poi si può entrare soltanto uno alla volta, però siamo fiduciosi. Como 70% turismo e quindi quest'anno sicuramente qualche, perché lavorare in queste condizioni è abbastanza difficile. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Como. 13:28, 349-238-6666, il numero verde per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, se volete commentare le notizie di oggi, quello che avete sentito sin qua, ci risentiamo tra pochissimo. Queste le notizie di oggi, fase 2 d'Italia riparte, code davanti ai negozi per i mezzi pubblici, a Milano passeggeri in fila controlli alla stazione per le partenze verso il sud, sovraffollamento a Napoli sui vagoni della Circumvesuviana. Lotta al virus, funzionano gli anticorpi del vaccino italiano, in estate i test clinici sugli uomini. Risorse a fondo perduto per le imprese in arrivo nel prossimo decreto del governo, le annuncia il ministro dell'economia Gualtieri. Eccoci qua, cari ascoltatori, in diretta con Effetto Giorno, i vostri messaggi al 349-238-6666. Velocemente con Sergio che chiede perché insistiamo sulla questione dei tamponi, visto che in Italia, l'Italia è il primo paese al mondo per tamponi in rapporto agli abitanti, siamo il quarto paese in assoluto, dice Sergio, assolutamente Sergio, però non siamo noi a dire che i tamponi non sono necessari, l'ha detto il direttore dell'ATS di Milano, che bisognerebbe farne di più. D'altra parte l'Italia ne ha fatti tanti, ma siamo anche il secondo paese che è partito dopo la Cina per questa crisi, e quindi è ovvio che siamo avanti rispetto agli altri. Siamo anche il terzo paese per numero di vittime al mondo, quindi insomma non mi scandalizzerei se si cerca di fare di più nel contrasto sanitario all'epidemia. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Siamo ripartiti, piano, con circospezione, ma siamo ripartiti. E ora l'Italia della fase 2 deve fare i conti con un effetto collaterale che forse ha sottovalutato: le code. Dai mezzi pubblici a ogni esercizio commerciale, sui marciapiedi si snocciola la lunga teoria di cittadini con mascherina ben distanziati tra loro. Significa che ogni operazione dura molto di più del previsto, quindi significa che si deve porre un problema di orari e di nuovi sincronismi sociali tra tempo di lavoro e tempo per sé. Le attività devono essere distribuite su fasce orarie più lunghe, il tempo del lavoro probabilmente si dilaterà, e non sarà per poco. Questa nuova realtà durerà a lungo. Si pone quindi un problema di produttività e di remunerazione del lavoro notturno o in straordinario. Imprese e sindacati hanno di fronte un terreno importante su cui esercitare la fantasia negoziale, e il governo, e quindi lo Stato, può aiutare le parti a gestire proprio questa emergenza che sarà poi la nuova normalità. È qui il vero intervento pubblico nell'economia, altro che nuova IRI.